Mia via, vado cantare una canzoncella dolce, ma stai dormendo e non ti sei scettato, sti finestrelle non si vanno aprire, e non ricamo sta mandolina. Siete bella mia, non chiudermi, e non ricamo sta mandolina. Siete bella mia, non chiudermi. Se sono arrucchiato cento stelle, tutto per star a sentire questa canzone. A gente se parla le tre più belle, dicevano non c'è una passione, è passione che non passa mai, passa la luna e se non passerà, tu certa che sta non ci penserai, ma tu nasci stupa, ma fattura, tu certa che sta non ci penserai, ma tu nasci stupa, ma fattura.